jazz e dintorni. Viaggi dentro la musica, percorsi proposti da Stefano. Buonasera, ben trovati a tutti, eccomi di nuovo qui per un'altra puntata di Jazz e dintorni. E non vi stupirà se questa sera Jazz e dintorni è dedicata ancora una volta al Natale. Siamo a Natale, abbiamo appena lasciato i nostri amici di Bruxellando con una puntata sul Natale, e anche questo proposto jazz non potevano che essere di nuovo natalizie. Natalizie a modo nostro, così come piace a noi che ascoltiamo jazz e dintorni, a me che ve lo propongo e a tutti quelli che mi incoraggiano in questa impresa di scoperta di musiche varie, sempre caratterizzate dalla qualità, almeno la qualità, quella che io ritengo qualità. Speriamo che anche voi continuate ad apprezzare queste idee che vi propongo. Fatemelo sempre sapere, scrivetemi, andate sul blog, vi ricordo radioalma.blogspot.com, c'è la possibilità di inserire i commenti, insomma ogni cosa che voi mi dite io sicuramente la terrò presente come ho fatto finora. Adesso passiamo subito ad ascoltare la selezione che io ho preparato per oggi, e voglio proprio iniziare con un italiano che abbiamo già sentito altre volte, una voce molto particolare. Si tratta di Mario Biondi, un catanese con degli arrangiamenti e appunto delle soluzioni estremamente simpatiche e originali. Questo pezzo è un pezzo anch'esso naturalmente natalizio, un arrangiamento di un altro pezzo che lo ha reso famoso. In questo lui compare con Nick and Nightfly, il titolo è This is Christmas Time, Mario Biondi. Children all around, there's magic in the air. Take my hand and come with me. Can't you see the snow is falling down? This is Christmas time. Ringing bells, singing songs, city comes alive. And you'll be part of the joy, like a child believes in Santa Claus. This is Christmas time. This is Christmas time. Share the joys of Christmas fun. That's what you gotta do. Let's send a letter to the world. Everybody, let's make this dream come true. This is Christmas time. I say, Lila. This is Christmas time. Shine your light of love tonight. Shine your light of love. Shine your light of love tonight. Shine your light of love. Shine your light. Monte Carlo. Christmas time. Mario Biondi, Nick the Nightfly, This is Christmas Time, un bel pezzo di questo nostro cantante catanese di notevolissimo livello e anche molto divertente. Avete capito che questo pezzo era stato proprio realizzato adattando un'altra canzone molto, molto famosa, sempre di Mario Biondi, e proprio con tutti gli effetti natalizi. E adesso passiamo, rimaniamo sempre in Europa come cantante, una cantante danese, si chiama Malene Mortensen, una cantante giovane nata nel 1982, una rivelazione di questi concorsi che si fanno nelle televisioni. Adesso per esempio in Italia abbiamo X Factor, c'era un programma che si intitolava Stjerne for en Aften, che poi significa Star for a Night, stella per una notte, nel 2001, e Malene Mortensen ha vinto questo concorso, e direi, dopo che avremo sentito la sua voce, capirete anche perché, e da quel momento ha avuto molti altri successi, ha partecipato all'Eurovision, ha inciso vari dischi. Fra i pezzi che ha inciso una versione jazzistica di un famoso pezzo pop legato a Natale. Si tratta del pezzo Last Christmas, è un pezzo di George Michael, per chi lo ricorda, e questa è una versione del tutto particolare, vedrete, sempre molto piacevole, di Malene Mortensen, Last Christmas. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day you gave Malene Mortensen, Last Christmas, un famoso pezzo riproposto in maniera diversa da quello a cui siamo abituati a sentirlo, Last Christmas dei George Michael. E ancora una riproposizione di un pezzo però più classico in questo caso. L'abbiamo sentito proprio all'inizio quando c'è stato un assaggio di Diana Krall con Jingle Bells. Allora, Jingle Bells è una delle musiche che noi siamo abituati ad avere nelle nostre orecchie durante questo periodo natalizio. E naturalmente è stato eseguito e interpretato da tantissimi musicisti. Fra questi anche Manhattan Transfer. Manhattan Transfer è un quartetto ormai storico di voci, due uomini e due donne che in alcuni casi cantano a cappella, in altri casi con l'orchestra, ma sempre con degli effetti notevoli. E qui lo sentiamo appunto nella loro interpretazione di Jingle Bells. We love those J-I-N-G-L-E bells, bum, those holiday J-I-N-G-L-E bells, bum, those happy J-I-N-G-L-E-B-E-L-L-S. We love those J-I-N-G-L-E bells, jing. Jing, jing, jing, jing, jing, jing, jing, jing, jing, dashing through the snow in one horse open sleigh. All the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle, jingle, jingle, now the ground is wide. You go it while you're young. Take the girls tonight and sing the same song. Just got a bobtail man, too sporty for his feet. Then hitch him to an open sleigh and crack, he'll take the lead. Oh, jingle bells, jingle bells, I'm just nuts about bells. Jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in the one horse open sleigh. Here we go again with that tintinabulation of the vibration. Think of thinking of a one horse of a sleigh. Jing, jing, jing, jingling bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride, just to ride in the one horse open sleigh. Jingle, jangle, ginger, spangle, jingling all the way. Hey, what fun it is to be rocking in a one horse open sleigh. Jingle bells, jing, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Jingle, jangle, jingle, spangle, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Jingle, jingle, jingle bells, jingle. Jingle Bell, in questa bellissima interpretazione dei Manhattan Transfer, avete sentito cosa riescono a fare con le loro voci. E adesso sentiremo un altro musicista, un cantante, compositore che con la voce fa delle cose notevoli da tanti anni. Parliamo di Al Jarreau. Al Jarreau, nato nel 1940 nel Wisconsin, a Milwaukee, e sin da quando era giovane è riuscito a, già negli anni 80, beh, non giovanissimo forse, ma è diventato famoso proprio in quel periodo con dei bellissimi dischi in cui il principale strumento era proprio la sua voce. Lo sentiamo adesso in una interpretazione di un classico pezzo natalizio, un pezzo di quelli utilizzati soprattutto in chiesa e che riconoscerete immediatamente, e il titolo è O Come All Ye Faithful. In italiano è un po' diverso, ma lo riconoscerete immediatamente. Let me greet this Christmas, and once again let me see my friends. and family, see them smile again, and let us all rejoice and sing sweet heavenly songs on this Christmas Day. Ooh, let us rejoice in the Spirit of the Lord. Ooh, in the Spirit of the Lord. Ooh. Come, all ye faithful, Jehovah Wiper and Rider of the Front. Oh, come, come ye, oh, come ye to Bethlehem. Oh, come and behold him, for the King of angels. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Christ the Lord. Oh, singing choirs of angels, sitting in exultations. Oh, sing, all ye citizens, oh, of heaven above. Oh, glory to God, glory in the highest. Oh, come, let us adore him. Come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Christ the Lord. Christ the Lord. Pezzo a sfondo religioso, sempre molto legato al Natale, O come all ye faithful, venite, adoriamo. Avete riconosciuto il pezzo che viene fatto anche in molte celebrazioni italiane, con questa grande voce di Al Jarreau, da un disco del 2008 intitolato Christmas. E visto che parliamo di grandi voci legate a musiche tipiche natalizie, adesso vi propongo Nat King Cole. Nat King Cole, l'altra voce importantissima negli anni 40-50, è veramente un periodo in cui questo cantante ha avuto un grandissimo successo. Tra parentesi, è stato il primo cantante nero ad avere un varietà suo in televisione, per farvi capire un po' così l'importanza che anche lui ha avuto nella storia musicale americana. La sua voce è inconfondibile, la riconoscerete subito, e il pezzo che ho scelto di proporvi è appunto un altro pezzo classico natalizio, e si intitola Adeste Fideles. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come, oh, come to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. On earth, sing ye praises, praise ye the Father, Regem Angelorum venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus. Nat King Cole ed Este Fideles, avete capito che era lo stesso pezzo di prima, solo eseguito nella versione con testo in latino, mentre prima era in inglese. Insomma, in tutte le lingue in cui questi pezzi vengono eseguiti ricordano immediatamente il periodo a cui sono legati, appunto il periodo natalizio. Adesso passiamo da grandi voci a grandi strumenti e facciamo anche un salto un po' più in avanti. Ritorniamo a così metà degli anni 90 e 2000, perché questo artista che è Chris Botti, che io vi propongo ogni volta che ne ho l'occasione, è un artista che suona la tromba in maniera molto piacevole, molto soft, e quindi si adatta bene anche ad alcune musiche natalizie. Ha fatto un disco nel 2002 che si intitolava December, e questo pezzo che vi farò ascoltare è Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow, un altro classico natalizio. Chris Botti. Thank you. Buon Natale. Feliz Navidad. Buon Natale. Calà Cristina. Alegrando a toda mi America. Buon Natale. Calesi Ortez. Saludando aquí, saludando allá. Buon Natale. Feliz Natale. Auguri. Y buon anno nuovo. Buon Natale. Prospero Año Nuevo. Feliz Navidad. Prospero Año Nuevo. Feliz Navidad. Joyeux Noël y Bon Ami. Prospero Año Nuevo. Un feliz Año Nuevo. Próspero Año Nuevo. Joyeux Noël y Bon Ami. ¡Feliz Navidad! ¡Joyeux Noël y Bon Ami! ¡Joyeux Noël y Bon Ami! Ecco che vi abbiamo augurato qui da Radio Alma 101.9 Bruxelles e un buon anno in tante lingue, alcune delle quali parlate da questa radio così particolare e così nuova nei suoi contenuti, almeno speriamo che lo sia per voi. Vi ricordo che siete all'ascolto di Stefano, la trasmissione è Jazz e dintorni e inevitabilmente è dedicata a Natale in Jazz. Già avevamo avuto un'altra puntata agli inizi di dicembre e adesso a ridosso di Natale, prima che tutti partano, anche salutando quelli che sono partiti e che magari ascolteranno successivamente questa puntata, un po' di musica natalizia. E continuiamo con gli artisti che hanno interpretato famose canzoni natalizie, dandogli un po' un tocco jazzistico o jazzato. E il prossimo nella lista è Michael Bublé, cantante canadese, anche lui piuttosto giovane, nato nel 75, che da metà degli anni 2000 ha avuto un successo mondiale. Il pezzo scelto e interpretato da Michael Bublé è White Christmas. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and the children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your days be merry and bright. Christmases be white. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and the children listen to hear the sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas. White Christmas, Michael Bublé. Questa canzone sicuramente si addice bene all'attuale colore che caratterizza anche Bruxelles e anche buona parte del nord Europa, direi. Quindi White Christmas, un colore, la neve appunto legata a questo periodo dell'anno che piace tanto ai bambini, forse un po' meno agli automobilisti o a chi deve partire in aereo, ma che certamente dà un tocco tutto particolare e ci fa più sentire questo importante periodo dell'anno, importante per le vacanze, per chi crede, per chi vuole rivedere la propria famiglia, per tante persone. E speriamo che questa colonna sonora scelta questa sera vi aiuti in questo spirito natalizio a ritrovare questa caratteristica di buona predisposizione che dovrebbe caratterizzare il Natale. E il prossimo pezzo, anche questo è un titolo significativo, si intitola It's the most wonderful time of the year, quindi è il più bel periodo dell'anno, il più meraviglioso periodo dell'anno. Chi ce lo canta è un meraviglioso cantante, un altro crooner, un altro cantante di intrattenimento, si chiama Harry Connick Jr., sicuramente il più famoso negli Stati Uniti per questo genere di interpretazione, venduto milioni di dischi e anche in questo pezzo sentirete tutta la sua bravura e tutta il suo entusiasmo e il suo calore nell'interpretare dei pezzi famosi e molto conosciuti. It's the most wonderful time of the year, Harry Connick Jr. It's the most wonderful time of the year, with the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. Oh, it's the most wonderful time of the year. It's the happiest season of all, with those holiday greetings and gay happy meetings when friends come to call. Oh, it's the happiest season of all. There'll be parties for hosting, marshmallows for roasting, caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. Oh, it's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. Yeah, it's the most wonderful time of the year. It's the most wonderful time of the year, Harry Connick Jr. con la sua voce tipica da crooner che lo ha reso famoso e che continua a sfornare meravigliose canzoni da ascoltare così con piacere. E adesso parliamo di un altro grandissimo pilastro della musica jazz a tutti famoso. Parliamo di Louis Armstrong, Satchmo, come era anche soprannominato. Vissuto tra il 1901 e il 1971, già a partire dagli anni 20 era un musicista molto famoso e ha mantenuto questa sua fama per tutti gli anni successivi. fama dovuta alla sua bravura nel suonare la tromba, nell'essere innovatore in tutto questo, ma anche grazie alla sua voce che lo rendeva molto particolare. Il pezzo che vi propongo stasera è un pezzo che lui ha reso famoso e che in questa versione che vi propongo in realtà è stato remixato, quindi è stata usata la base per poi mettere sopra, incastrare sopra degli elementi più moderni, e direi che l'effetto è molto molto bello. Il pezzo si intitola That You Santa Claus e la voce la riconoscerete subito, è quella di Louis Armstrong. That's you, Santa Claus. Gifts I'm preparing for some Christmas sharing, but I fall deep hanging in the stocking. I can hear nothing. That you, Santa Claus? Sure is dark out. Ain't the sight of spark out on my clacking jaws. Who's there? Who is it there? Stop for a visit. Is that you, Santa Claus? Are you bringing a present for me? Something pleasantly pleasant for me. That is just what I've been waiting. Would you mind slipping it under the dough? Old winds are howling. How would that be right? I may seem like stars. Yes, my, oh, you mind. Kindly will you reply? Is that you, Santa Claus? I can hear a knocking. Is that you, Santa Claus? That's you, Santa Claus, dalla voce di Armstrong, un remix particolare che attualizza questa canzone che comunque è un evergreen, quindi non invecchia mai, ma è ancora più simpatica sicuramente in questa versione. E adesso sentiamo, proseguiamo in questa nostra linea di pilastri della musica jazz che seguono pezzi natalizi, e passiamo a B.B. King, un chitarrista che ha scritto la storia della chitarra nel blues, che è ancora vivo, è nato nel 1925, ha 84 anni, continua a fare concerti sempre con grande entusiasmo e sempre con un'affascinante chitarra che lui chiama Lucille, e che da cui produce suoni assolutamente straordinari e particolari. Il pezzo in cui lo sentiremo, che appunto mette in luce sempre anche la sua chitarra, è A Christmas Celebration of Hope, B.B. King. It's Christmas in heaven, and it's heaven in you. And my darling, if you leave me, I don't know what I'd do. Yes, it's heaven at Christmas, and it's Christmas all year through. It's Christmas in heaven, and baby, it's heaven here with you. this Christmas, all is good. Yes, it's Christmas in heaven, and baby, it's heaven here with you. B.B. King con A Christmas Celebration of Hope, per tutti quelli che potranno trascorrere il Natale con i loro cari, con le persone a cui vogliono bene. Certamente quello che dice B.B. King, che appunto è meraviglioso trascorrerlo con chi, con te in questo caso, intendendo te, with you, la persona che, a cui vogliamo bene, che ci avvicina. Quindi a Natale anche questo, è poter stare così un po' tranquilli con le persone che più ci, a cui più vogliamo bene. E passiamo adesso a un'altra interpretazione, in questo caso solo musicale, di un quartetto molto importante nel mondo della fusion, soprattutto, che si chiama 4Play, ed è composto da quattro musicisti di altissima levatura: Bob James alle tastiere, Nathan Mist al basso, Harvey Mason alla batteria e Larry Calton alla chitarra. Il pezzo che ho scelto per voi in questa selezione natalizia, quindi anche loro si producono in qualcosa in natalizio, è un pezzo che è molto famoso, si intitola Santa Claus is Coming to Town, i 4Play. Belle atmosfere quelle create da 4Play in questa interpretazione di Santa Claus is Coming to Town. E adesso cerchiamo di mantenere queste meravigliose atmosfere con il prossimo musicista, Wynton Marsalis, trombettista, organizzatore, compositore, esecutore eccellente di musica classica, insomma un grande musicista. Nato nel 1961, l'unica cosa che abbiamo in comune è l'anno di nascita, ed è anche un grande scopritore di talenti, ha questa caratteristica, incoraggia molto l'attività dei giovani. Insomma, è un musicista che va ben al di là del semplice suonare. In questo pezzo che ho scelto per voi è tratto da un disco molto recente, del 2009, che si intitola significativamente Wynton Marsalis Christmas Jazz Jam, ed il pezzo è un altro pezzo classico, Have Yourself a Merry Little Christmas, Wynton Marsalis. Marsalis, nella sua versione di Have Yourself a Merry Little Christmas. E adesso passiamo a un chitarrista, forse meno noto di Marsalis, ma lo stesso molto bravo e anche molto interessante. Si chiama Mark Whitfield, nato nel 1967, ha inciso numerosi dischi, è americano naturalmente. È nato nello stato di New York e ha studiato al famosissimo Berklee College of Music, lo incontriamo molto spesso questo prestigioso istituto musicale, ed è significativo che adesso lui insegna anche al Berklee Institute, quindi vi dà un po' l'idea di come del percorso che questo grande musicista chitarrista ha fatto. E il pezzo è un pezzo famoso che abbiamo già ascoltato, quindi sentiremo un'altra versione, e il titolo vi farà capire di cosa parliamo. Si intitola Those Soulful Jingle Bells. Il chitarrista è Mark Whitfield. Thank you. Chitarra di Mark Whitfield in questa versione di Jingle Bells, ancora una volta avete notato come la stessa canzone può diventare molto diversa ma allo stesso molto bella a seconda degli arrangiamenti e dell'esecuzione che ne viene data. Bene, adesso purtroppo il tempo volge al termine e vorrei farvi ascoltare tanti altri pezzi che io ho selezionato, ma dovrò così limitarmi, però non posso non farvi ascoltare questa bella esecuzione del cantante Will Downing di un pezzo famoso, I'll Be Home for Christmas. I'll be home for Christmas. You can count on me. Please have snow and mistletoe and presents on the Christmas Eve will find me where the love light gleams. So I'll be home for Christmas. If only in my dream, only in my Downing, I'll Be Home for Christmas, un'altra bellissima interpretazione di questo classico natalizio. E adesso è giunta l'ora di lasciarci, in sottofondo un altro pezzo famoso, Silent Night, eseguito Dave Coates. Non mi rimane che su queste note farvi i miei migliori auguri, ci si scambiano sempre gli auguri in questo periodo, i miei sono sentiti, a tutti gli ascoltatori vi ringrazio, è stato un bellissimo anno, questo è anche un periodo di bilanci e sicuramente il 2009 è stato un anno molto bello, lo spero che sia stato così per tutti voi e spero anche che il 2010 lo sia altrettanto. Noi ci risentiremo proprio nel 2010, all'inizio di gennaio naturalmente, con altre puntate, altre proposte, ma soprattutto spero che questi giorni saranno per tutti voi di grande serenità e di grande gioia con tutte le persone care che vi staranno accanto. Vi saluto e vi ringrazio per questa serata, Stefano, in questa puntata di Jazz e Dintorni dedicata al Natale, un grande augurio a tutti, buon Natale. Avete ascoltato Jazz e dintorni, viaggi nella musica, percorsi e proposti da Stefano. Exactly what is it? Right now, I wanna make it clear, impromptu's not that we've been around for years. Highly respected among our peers, for making good music people love to hear. Some of y'all may be confused, because of the style we choose. We mix hip hop, jazz, and R&B. We don't categorize, we just make them sound good, baby. Is it hip hop? It is what it is. Is it jazz? It is what it is. Is it R&B? It is what it is. Call it what you want, it is what it is. Is it pop? It is what it is. Is it neo soul? It is what it is. Is it funk? It is what it is. Call it what you want. We make music to feel good, and we don't care who hood. That is bumping, keep it jumping. Impromptu's back till your kin. There's a sound you never heard. It's up to you, spread the word. Tell your mama, tell your friends. When they ask what it say, it is what it is. Is it hip hop? It is what it is.